restando, che restando fermo all'interno un mondo a sé stante. Se non credessi all'effetto farfalla applicato alla vita attiva non uscirei neanche. Se non capissi che basta un piccolo spostamento d'aria per farmi incontrare ad esempio una ragazza che per me sia interessante. Tramite il prototipo cinematografico della caduta di foglie imbarazzante, ma in base alle mie esperienze su me le scoperte volontarie posso affermare che spesso più che farfalla un effetto elefante. La meta non viene raggiunta, serve quasi solo giustificare uno sforzo grande. In realtà infantile potrebbe essere il voluto, che è cresciuto vuole anche la volontà. Ma loro un mondo di bambini? Sì, schiacciati da un elefante gigante. Anzi no, non sono bambini, non hanno voglia di fare tante domande. Vogliono gioia ma non a ogni costo, solo quando è abbassato. Ed è per questo che il carattere dell'uomo d'oggi è così scontato. Mi chiede Zarrillo Doce, o quasi.